La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, martedì 3 gennaio, 16:30, primi 12 secondi in diretta qui dal studio di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia come sempre per l'ascolto in diretta o in podcast. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, per qualunque richiesta, domanda, critica, contestazione, proposta e trasmissioni. E per intervenire, vi dico subito su che tema la trasmissione di oggi. È un tema che sta arroventando, è l'apertura dei siti di tutti i quotidiani oggi. Per intervenire, 800240024 per le opinioni, gli sms 349-238-6666. Di cosa parliamo? Sfondo, la politica avvampa in questi giorni, e in particolare oggi, perché c'è un duplice rilancio, sul tema come si fa a evitare che in rete vengano propalate e rimbalzino le cosiddette fake news, notizie false infondate? Opinioni varie e diverse sul tema. Oggi sì, la polemica arriva al diapason perché Beppe Grillo in un suo commento dice: altro che bufale sul web, ci vuole una giuria popolare per stampa e TV. Le notizie siano verificate dai cittadini, i direttori chiedano scusa a Capochino. Il complesso del sistema dell'informazione italiana, radio, televisivo e media, è lì al servizio del potere. Questo Grillo che chiede una giuria popolare, la verifica di giurie popolari, e accusa brutalmente, sia pur senza far nomi, l'intero complesso dell'informazione italiana. Il direttore del TG La 7, Enrico Mentana, dice: bene, queste sono dichiarazioni gravissime e io e i miei giornalisti, seppur, ripeto, non si tratta di essere citati per nome, ma comunque non possiamo far passare un'accusa di questo tipo. Quindi, dice Enrico Mentana, Beppe Grillo prepari i suoi avvocati perché lo querelo. Questo lo sviluppo di oggi, ma ripeto, sullo sfondo c'è la questione delle cosiddette fake news sulla rete. E quindi una serie di domande che io vi faccio, poi vedrete che c'è anche un caso giudiziario che oggi in realtà rilancia il tema e quindi ci consente di fare un po' di riflessioni per le quali ho chiamato un esperto vero, cioè un giurista, un avvocato che si occupa di temi dell'informazione e segue sistematicamente e li commenta anche sul Sole 24 Ore insieme al professor Giulio Nevi Gevani gli sviluppi e le problematiche che i temi della libertà della rete e delle responsabilità e dei limiti della rete oggettivamente hanno per l'impatto e il rimbalzo che esercita la nostra vita pubblica. Io mi limito a farvi, cari ascoltatori, delle domande per sollecitarvi a chiamarci e a dire la vostra. Domanda numero uno: voi vorreste che Facebook, quindi il gestore di una enorme piattaforma mondiale, facesse il giudizio preventivo di qualunque tipo di opinione pubblicata su Facebook? È questo quello che pensate? Come se Facebook fosse l'enorme direttore di un quotidiano stampato che ne risponde di fronte alla legge? E quindi, ripeto, di qualunque opinione, per giudicarne la fondatezza, noi non stiamo parlando, seconda questione, di contenuti evidentemente istigatori all'odio, manifestamente illeciti, per i quali, vedremo, c'è una disciplina, cioè la richiesta da parte dei soggetti interessati alla rimozione a un'autorità, e chi gestisce la piattaforma deve agire di conseguenza. Non sto parlando di un'altra cosa. Se parliamo di opinioni infondate, notizie false, significa: credete forse che Facebook debba esercitare un ruolo di questo genere? Domanda numero uno. Domanda numero due: al di là degli over the top, dei grandi gestori di piattaforme mondiali, no? Google, Facebook e così via, pensate voi che il gestore di un blog debba preventivamente giudicare opinioni che terzi, a quel punto tutti coloro che hanno libero accesso a quel blog, lasciano come commenti per giudicarne, sia nel caso che siano anonimi, sapete che sono tantissimi gli anonimi in rete, sia nel caso in cui siano opinioni invece rilasciate da utenti facilmente identificabili, ben identificati, e che comunque il gestore del blog, del sito, debba effettuarne un esame preventivo, perché altrimenti ne risponde anche lui di fronte alla legge, come fa il direttore di una testata di informazione quotidiana, stampata, radio, televisiva. Ecco, distinguiamo questi due grandi casi, ma mi interessa molto sapere se pensate davvero che Facebook sia un grande direttore mondiale di giornale e debba, però mi spiegate anche come fa a quel punto, preventivamente giudicare tutto quello che viene pubblicato sopra, e se è più in piccolo però, comunque abbia un blog, siete centinaia di migliaia ad averlo in questo paese, debba fare un esame preventivo, perché altrimenti ne risponde di fronte alla legge anche lui come se fosse il direttore di un giornale. La mia opinione, ma conta poco, è no in entrambi i casi. E tra l'altro, poi dice perché io mi piacciono gli Stati Uniti d'America, eccetera, eccetera. Ma io mi limito a citarvi un paragrafo di una norma su questo, intervenuta la bellezza, pensate, di 20 anni fa, nel 1996, il Communications Decency Act, quindi una norma di legge generale sui limiti delle responsabilità nella informazione, che ovviamente già parlava della rete 20 anni fa. Ecco, questa Communications Decency Act del 1996, alla sezione 230, ha una righetta e mezza che vi leggo prima in inglese e poi è chiarissima, però la traduco pure, che recita così: no provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. Cioè nessun provider o cliente utilizzatore di servizi che offrono informazione, quindi libertà d'opinione, in maniera interattiva in rete col computer, risponde con una disciplina analoga ai responsabili degli altri organi di informazione. Sezione 230 del Communications Decency Act del 1996, perché gli Stati Uniti si posero allora il problema: se noi pensiamo di rendere tutti i direttori responsabili come si fa in un giornale, in una testata di informazione radio-televisiva, noi significa che diciamo alla rete che non si deve sviluppare. Questa è la posizione americana, potrà non piacere. Distinguiamo, lo ve lo dico ancora una volta, la pubblicazione in rete di notizie o opinioni che sono manifestamente illeciti o che incitano all'odio. Distinguiamo la facoltà per i soggetti colpiti di chiederne la rimozione e ottenerla in tempi ragionevoli, da invece le due responsabilità generali per gli over the top su tutto quello che capita e viene pubblicato nella rete, Facebook e gestori di blog. Perché dico questo? Perché, ultimo passaggio della mia introduzione, Repubblica stamane ha rilanciato gli estremi di una decisione assunta dalla Corte di Cassazione, che appare, per come è presentata da Repubblica, una decisione apparentemente in contraddizione con decisioni precedentemente assunte a livello europeo e anche in Italia. È una sentenza relativa alla responsabilità del gestore di un sito sulla pubblicazione da parte di un utente terzo non anonimo su questo sito, in cui si esprimevano delle opinioni su Carlo Tavecchio, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, un commento pubblicato nel 2009, quindi anni fa, sul sito agenziacalcio.it. La Cassazione, di fronte al fatto che il gestore di questo sito era stato querelato per concorso in diffamazione insieme all'autore noto dell'opinione pubblicata sul presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, il gestore di questo sito era stato assolto in primo grado, in secondo grado condannato, e ora la Cassazione conferma la condanna. Dovrà pagare 60.000 euro a Tavecchio, appunto, per concorso in diffamazione. Teniamo presente che stiamo parlando di una responsabilità da parte di un gestore di un sito su un'opinione espressa da un terzo che ha libero accesso a quel sito, diffamatoria, non di un anonimo. Tenete conto che siamo in presenza di sentenze della Corte Europea, la CEDU, che in alcuni casi, un caso in particolare, un caso che riguardava l'Ungheria, adesso vediamo se abbiamo tempo per approfondirlo, ha escluso la responsabilità di gestore di siti per corresponsabilità di opinioni persino di anonimi. Allora, come vedete, siamo in presenza di un fascio enorme di problemi, a cominciare dagli over the top e cosa chiedere a Facebook, scendendo ai gestori di siti, distinguendo tra opinioni anonime e opinioni invece non anonime, le responsabilità in cosa sono uguali e diverse rispetto all'informazione, alle testate di informazione disciplinate, come è ovvio, dalla libertà d'opinione da una parte, ma dei limiti precisi di cui si risponde, rispondono i direttori per ciò che viene pubblicato. E partiamo per capirlo esattamente, per capirlo meglio, esattamente dalla portata di questa sentenza della Cassazione. Per capirlo meglio abbiamo, ve l'ho detto all'inizio, un avvocato che si occupa, tra gli altri temi, dei temi del diritto all'informazione, firma molte opinioni, l'ha fatto pochi giorni fa, il 30 dicembre sul Sole 24 Ore, esattamente sul tema della responsabilità di Facebook, per capirci una parte del problema di oggi, e cioè l'avvocato Carlo Mezzeril. Grazie, buon pomeriggio di essere con noi. Buon pomeriggio, grazie. Cosa pensa l'avvocato Carlo Mezzeril della sentenza della Cassazione, di cui, degli elementi che abbiamo noti attraverso Repubblica, in materia della condanna per concorso in diffamazione di Tavecchio di un gestore di un sito per concorso in diffamazione di un'opinione nota? Ma sì, grazie. Io ho letto la sentenza, devo dire la verità che le sentenze, forse anche giustamente, nella sintesi soprattutto di questi ultimi tempi, a volte non fanno capire benissimo quale sia il fatto sottostante. Fatto sta, quello che penso è che sia una novità assoluta nel nostro panorama giurisprudenziale, perché il principio che emerge da questa sentenza, sia pure, ripeto, non conoscendo perfettamente il fatto sottostante, è sostanzialmente che il gestore di un sito risponde direttamente in concorso per diffamazione per i commenti firmati dai lettori o comunque da soggetti terzi che postano direttamente sul sito gestito dal primo. Questo è un inedito perché? Perché in assenza di regole specifiche sul web, non esistono delle regole ad hoc per il web, vengono applicate le regole normali. Parliamo della diffamazione, articolo 595, il codice penale punisce chiunque offende la reputazione di una persona assente davanti a più di due persone. Finora la posizione per quanto riguarda i blog o i gestori dei siti, sempre, ripeto, per i contenuti prodotti da terzi, qual era? Era quella per cui se il blogger o il gestore del forum o del sito vaglia i contenuti di terzi prima di pubblicarli, può risponderne. Perché? Perché il vaglio è stato una condizione necessaria per la pubblicazione, quindi in qualche modo il blogger o il gestore del sito ha contribuito alla pubblicazione e quindi all'offesa. Nel caso in cui il sito, il blog, il forum non fosse monitorato e quindi fosse uno spazio lasciato a chiunque per dire ciò che vuole, il blogger, il gestore del sito, il gestore del forum non contribuisce alla pubblicazione e quindi non risponde. Questa era più o meno, sia pure nella diversità degli indirizzi dati dal fatto che appunto, come dicevo prima, non c'è una regola ad hoc, però era l'indirizzo che si era formato, che mi sembrava un indirizzo ragionevole, ragionando in termini di principi generali. C'è da dire che c'è una fortissima domanda di tutela, lei ha ricordato prima nella sua introduzione il fatto che esistono fasci davvero di problemi, uno di questi problemi è la forte domanda di tutela che probabilmente è generata dal fatto che sono stati moltiplicati i canali in cui si possono diffondere notizie illecite, messaggi offensivi e quindi sostanzialmente la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma anche tante voci che stanno commentando questi fatti da molto tempo, stanno proponendo soluzioni, individuano sostanzialmente due possibilità. O si rende il gestore, il blogger, il gestore del sito, responsabile in qualche modo dei contenuti di terzi direttamente. O altrimenti si impone in un qualche modo, anche qui perdonatemi la genericità ma è tutta una strada da inventare, si impongono degli obblighi di riconoscibilità da parte di chi utilizza lo strumento rete, cioè gli si impone di disvelarsi e insieme si creano o degli obblighi o comunque si favorisce la possibilità di più che la possibilità si questo sì, un obbligo, in effetti, si impone un obbligo al gestore del sito di cancellare su ordine dell'autorità il contenuto illecito. Queste sono due strade alternative. O si rende responsabile il gestore direttamente, oppure si limita l'anonimato perché si impone da una parte il disvelamento e che ovviamente si accompagna alla responsabilità del soggetto terzo. Allora, avvocato, io le metto alcuni problemi in ordine, non di priorità, casuale, ma insomma di una certa importanza. Secondo la sentenza della Cassazione di oggi, che assume come prova, ma vedremo poi le motivazioni, del concorso in diffamazione, il fatto che l'autore del commento aveva scritto una mail preventiva al gestore, che è cosa ben diversa secondo me da condividere i presupposti soggettivi e oggettivi del reato, ma qui no, non faccio il giurista, io dico solo che rimango abbastanza senza parole, ma... con questa sentenza i gestori del sito, per esempio dei 5 Stelle, su cui intervengono soggetti a migliaia che esprimono giudizi durissimi, i gestori del sito del Movimento 5 Stelle diventerebbero responsabili, corresponsabili di tutti gli eventuali diffamazioni, cose eccetera, che si possano riscontrare in quel sito. Non mi sembra un problema secondario. Uno, due. Pensare di abolire i troll, per capirci, o comunque tutte le false identità dalla rete, auguri per quello che mi riguarda, significa una psicopolizia orwelliana in tutto il mondo, ho l'obbligo di non crederla come una ragionevole possibilità. Terzo, rendere tutti direttori di quotidiani, da Facebook fino a un gestore di un sito, mi sembra anche questa una cosa che mette fortissimamente in questione A, la possibilità di farlo, B, la libertà piena di opinione, che è una delle ragioni per cui esiste la rete. Ultima mia osservazione, cosa diversa, a me sembra, magari mi sbaglio, la facoltà, e qui bisogna essere precisi perché bisogna dare la facoltà con un'autorità che abbia i mezzi per farlo, di valutare un esposto di un qualunque soggetto che dice quella cosa mi diffama, è un illecito, cioè non falsa, ma mi deve diffamare, non è una notizia falsa, perché la notizia falsa, io non lo voglio il grande certificatore delle verità, ma pensate, cari ascoltatori, a cosa può voler dire se noi portiamo in tribunale ogni notizia sull'olio di palma? Vogliamo parlare dell'informazione sugli OGM in Italia? No, perché io a quel punto vado avanti per 20 minuti, portiamo tutti di fronte ai giudici, questa è la nostra idea di come si fa l'informazione, però questa è una mia opinione. Penso invece che individuare con precisione un'autorità che abbia le risorse tecniche e il tempo stretto per valutare esposti di soggetti che dicono quella roba mi diffama, è falsa. Faccia un'ordinanza, in quel caso sì, da Facebook al gestore di un sito, di un forum, eccetera, eccetera, per rimuoverla. Questa mi sembrerebbe l'unica cosa ragionevole che contempera libertà, che contempera il fatto che non mettiamo in piedi grandi forum orwelliani su qualunque cosa si pubblica, se sia vera o meno, perché a me vengono i brividi al pensare che giuridicizziamo la verità. Ecco, il grande inquisitore, abbiamo realizzato un sogno che per me è una tremarella, però a me interessa capire, perché lei ha scritto su Facebook proprio pochi giorni fa, e in effetti noi abbiamo delle sentenze europee, quella su Google che lei richiamava mi sembra indicare più la mia strada che le altre, però la risposta me l'ha data tra un minuto, perché intanto abbiamo l'informazione sul traffico. La versione di Oscar. Allora, siamo partiti dallo scontro su notizie false, vere, come si fa, cosa studiamo? Un grande controllo in rete, la dichiarazione di Grillo, durissima contro tutta l'informazione, Mentana che dice ti querelo, la sentenza della Cassazione che condanna per concorso in diffamazione il gestore di un sito per un commento firmato, che quindi consentiva di identificare gli estremi del reato in chi aveva fatto il commento, a fronte di sentenze precedenti invece anche nella legislazione italiana in cui non si riconsideravano responsabili di siti, forum eccetera, nemmeno per commenti diffamatori anonimi. Allora, siamo di fronte a un gigantesco problema. L'avvocato Carlo Mezzi de Ril ci ha detto qui esistono in buona sostanza alcune strade tutte da costruire, onde rendiamo responsabili chi gestisce dalla più grande piattaforma ai siti, i forum, i blog, di tutto quello che pubblicano, oppure bisogna procedere a un'alternativa. A me la prima strada sembra irrealizzabile, impossibile e molto pericolosa per l'informazione, la libertà e per la rete, ma soprattutto non ce la vedo il grande inquisitore di ogni notizia e ogni opinione, però magari mi sbaglio. La seconda è quella di: è possibile davvero un meccanismo efficace e rapido di rimozione di ciò che è non solo manifestamente illecito, l'odio, la violenza sessuale, religiosa, tutto quello che volete voi, cosa che si può fare automaticamente con gli algoritmi, come facevano fino a questo momento i gestori di piattaforme, ma anche quello che è valutabile come diffamazione personale. E io non so come si fa a essere rapidi per valutare una cosa di questo genere. Che dice l'avvocato Carlo Mezzaril? Ma guarda, io sono perfettamente d'accordo con lei. Le due strade che ho cercato di disegnare all'inizio sono le due strade che in astratto sono state prese in considerazione. La prima strada anche a me fa molta paura, ma mi fa molta paura soprattutto perché facciamo subito una premessa. Io, insomma, meno regole ci sono e più il mondo mi piace. Quindi oggi dico, si potrebbe stare anche come siamo, non è che internet è la giungla senza disposizioni, però è vero che c'è una forte domanda di tutela. Allora, a questo punto, la prima strada, quella che individuiamo, è una strada pericolosa, perché dove c'è la responsabilità ci deve essere il potere. E allora a questo punto, se rendiamo responsabili Facebook, gli over the top, il singolo blogger, è chiaro che dobbiamo dargli il potere di decidere che cosa esce e che cosa no. E quindi è ovvio che la strada sarà naturalmente quella verso la eliminazione delle opinioni pericolose, che a volte sono illecite e a volte no, sono anche soltanto le opinioni nuove. Quindi la prima strada è una strada che ci fa paura, non ci piace, modificherebbe il mondo per come lo conosciamo. La seconda strada, invece, quella di diminuire il più possibile l'anonimato, perché in fondo in una società democratica come la nostra, parliamo della nostra, cioè ora e qui, Italia 2017, in fondo ci si può mostrare. E allora ci si deve forse anche mostrare, perché nell'ambito di un bilanciamento tra i vari interessi, forse il rinunciare all'anonimato a favore della possibilità di esprimersi liberamente e quindi di prendersi anche sulla schiena la responsabilità di quello che si dice, è una soluzione che può essere un buon compromesso, insieme, come dicevamo prima e come ricordava lei, all'obbligo, questo sì si potrebbe imporre, un obbligo nei confronti di chi gestisce il sito, di fronte, ma come ricordava lei, ad una segnalazione dell'autorità pubblica, non certo di un privato, un obbligo per chi gestisce il sito di eliminare i contenuti ritenuti illeciti, magari temporaneamente, per poi, di fronte ad un giudice, se confermasse o non confermasse, confermasse l'illecito, il contenuto resterebbe cancellato, se non lo confermasse potrebbe riapparire. E questo è per l'ultima parte, è quello che per gli addetti ai lavori, c'è una sentenza della Corte Europea, Google Spain, per il diritto all'oblio, che in realtà è intervenuta proprio su quest'ultimo punto. Io ho i miei dubbi anche sulla fattibilità della uscita dall'anonimato. Spiego perché, siccome la cosa più elementare del mondo per chi è uno specialista di rete è mantenere identità fake o trollare, perché è una delle manifestazioni abbastanza diffuse, soprattutto sull'opinione politica, lasciamo perdere la durezza, la violenza con cui ci si critica in rete su questo. Beh, insomma, per gli specialisti di queste cose, che fanno parte anche di campagne organizzate dei movimenti politici e non solo di uno, come leggete, perché su questo mi scappa da ridere, non solo di uno, però detto questo, basta rimbalzarlo da un content provider con una legislazione diversa dalla nostra, che a quel punto voglio vedere come si fa a obbligare. Cosa procediamo? Per oscuramenti sistematici di quel tipo di commenti in tempo reale? Mi pare molto problematico, a dire la verità. Io preferisco la riga e mezza che vi ho letto all'inizio del Communications Decency Act americano del 1996, ma si sa, io sono un semplificatore. Sentiamo un po' come la pensano alcuni di voi che ci hanno telefonato. Cominciamo con Daniele. Prego, Daniele. Salve Oscar, buongiorno. Salve. Allora, intanto io torno un attimo sulle fake news, che sono un argomento per me più facile anche da esporre rispetto a quel, diciamo, il discorso come si è evoluto. Il problema in realtà delle fake news è un problema che nella realtà potrebbe addirittura non esistere, e mi spiego subito. Intanto dobbiamo chiederci che cosa ha legittimato l'utente, quindi mi riferisco al consumatore medio, possiamo essere io, potrebbe essere lei, a ritenere affidabile quello che legge sui social network, in particolare stiamo parlando di Facebook. Il fatto che gli organi di informazione primaria, in particolare la televisione, citano spesso, specialmente in ambito politico, fonti prelevate direttamente dai social, nominando il social, e questo chiaramente legittimato negli utenti. Però Daniele, al di là di questo, scusami, ma è legittimato dal fatto che centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, miliardi di persone li utilizzano? Voglio dire, adesso questo, il problema qual è? Un certificatore di verità? Per esempio, alcuni mi dicono: ma come, Giannino, tu non attacchi a testa bassa Grillo che evoca il Tribunale del Popolo? Ma figurati se non lo attacco, ma posso essere favorevole al Tribunale del Popolo sull'informazione? Io ritengo che l'informazione si difende facendo bene l'informazione, dopodiché, perdonate, è da una vita che becco insulti. Se dovessi portare in tribunale chiunque mi insulta, beh, hai voglia. Io non penso che dovermi difendere con il tribunale, però questa è la mia opinione, Daniele. Chiarire molto di più la situazione, e è molto cansante per quanto riguarda i social network. Sì. Lei si accompagnerebbe mai con una persona spudoratamente fanfarona, bugiarda, maleducata? La seguirebbe e presterebbe ascolto a questa persona nella vita normale? Suppongo di no. No. Quindi tutto quello che è riassumibile come fake news nei social network è, come dire, è bloccabile allo stesso modo. Basta non seguire più quel determinato profilo, non dare. Ma questa voce è una scelta individuale, Daniele. Esattamente. Noi stiamo parlando dell'ipotesi che Facebook sia chiamata lei. Non è un problema. Di Facebook, assolutamente. Allora siamo d'accordo, ma ci mancherebbe, Daniele, su questo sono d'accordo. Ciascuno esercita la sua libertà di seguire o non seguire quello che ritiene. Per questo che prima parlavo di legittimazione verso gli utenti. Nel momento in cui mio nonno, faccio un esempio, prima diceva: è vero perché le hanno detto in TV. Ho capito adesso. I miei genitori dicono: è vero, c'è un problema di credibilità generale, ho capito, questo è vero, questo d'accordo, ma questo ha a che vedere con le armi culturali e le scelte individuali di ciascuno. Manfredo, che pensa Manfredo? Ciao Oscar, buongiorno. Ma è un gran problema, francamente non ho una soluzione. A me danno molta noia più che i commenti delle persone, perché tanto siamo al Bar Sport, come l'ascoltatore prima. Mi danno molta più noia questi siti di fake news. Non dimentichiamoci che nel bene o nel male la scusa ideologica per cui 6 milioni di ebrei sono passati per il cammino è il famoso saggio dei savi di Sion. Sì, sono d'accordo. Ma abbiamo imparato qualcosa nella storia oppure no? Assolutamente no, perché purtroppo la maggior parte delle persone, e ogni tanto è successo anche a me. Manfredo, ma questo ha a che vedere con la natura umana, non con l'idea che mettiamo una griglia di Stato alla libertà di espressione. La mia opinione, ripeto, le cose manifestamente illecite, quelle si devono rimuovere automaticamente. Le istanze di persone colpite devono avere un'autorità in grado di chiedere la rimozione. Ma il filtro di Stato è tutto in mano ai giudici, a me fa orrore. Oh, magari mi sbaglio, comunque io ringrazio l'avvocato Karim El-Zederin, perché molto più sapientemente me mi è parso poi soprattutto di capire che la pensa un po' come me. Lei deve essere malato di un morbo un po' troppo liberale, guarisca, ma io gli auguro un ottimo 2017 per quello che intanto scrive sul Sole 24 Ore, quello che fa nella sua vita professionale. Continuate sul Sole 24, appuntamento come domani mattina alle 8:20, attenti ai 2.